l'Olimpo degli dei. Giove, Plutone, Apollo, Mercurio, Giunone, Cupido, Bacco, Nettuno, Vulcano, Minerva, Eolo, Diana, Marte, Venere. Orgasmatron! Sale sull'Olimpo degli dei DJ Vortex. sulla montagna più alta del mondo era situata la dimora degli dèi. Uno di essi era DJ Vortex, Orgasmatron. Nell'Olimpo riecheggiava la sua musica. Caveman. caveman. RIN Radio Italia Network. Nell'Olimpo tutti stavano seguendo con ammirazione e giubilo le gesta mitologiche di DJ Vortex. Orgasmatron. Nettare degli dei. crazy. Rin, Radio Italia Network, nell'Olimpo degli dèi. lui era la forza, la turbolenza, la discordia. DJ Vortex. Orgasmatron. Rin, Radio Italia Network, nell'Olimpo degli dei. Radio Italia Network, nell'Olimpo degli dei. Radio Italia Network, Orgasmatron. Nell'Olimpo degli Dei, DJ Vortex. Venere. Di lei si innamorò perdutamente anche DJ Vortex, Orgasmatron, Rin, Radio Italia Network, nell'Olimpo degli Dei. Yeah. veloce e selvaggio. DJ Vortex, Orgasmatron. Rin, Radio Italia Network, nell'Olimpo degli dei. The music.